I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. E via libera la riforma della scuola fa molto discutere, soprattutto da un punto di vista politico, visto alla strana maggioranza che si è creata alla Camera. In realtà, guardandolo da un punto di vista economico, si può dire che l'unica certezza rispetto al testo inizialmente proposto dal governo è la conferma dell'assunzione di 100.000 precari che avevano già vinto il concorso. Il giudizio sul resto della riforma invece si divide tra chi sostiene che è stata notevolmente annacquata la parte più innovativa, ossia la maggiore autonomia data ai presidi e l'introduzione del merito nel giudizio degli insegnanti, e chi invece dice che piuttosto che non avere alcuna riforma, meglio avere una riforma anche se ammorbidita. In realtà ci chiediamo che cosa capiterà in ottobre, quando arriverà o dovrebbe arrivare a compimento l'altra grande riforma attesa, che avrà un impatto, se veramente di riforma si tratterà, anche sull'economia italiana. Quella della pubblica amministrazione, dove si prevedono anche lì introduzioni di merito e elementi anche di discrezionalità nella gestione delle varie amministrazioni. Se tanto ci dà tanto, sarà un'altra dura battaglia. Non è un mistero che nel pubblico impiego il governo ha parte della sua base elettorale, ma occorrerebbe non dimenticare l'obiettivo finale, come in quello della scuola. I protagonisti di un'istruzione per un'economia futura sono gli studenti e non gli insegnanti. I protagonisti di una riforma della pubblica amministrazione non sono i dipendenti e i dirigenti, ma sono i cittadini che tutti i giorni hanno a che fare con le inefficienze della nostra macchina pubblica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. C'è ancora molta strada da fare, ma stiamo andando nella direzione giusta. Forse proprio questa frase, lanciata via Twitter dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan, a dare il giusto peso alla notizia diffusa oggi dall'Istat del buon andamento della produzione industriale. La verità è che serve cautela, e i dati non devono mai essere enfatizzati, ma è un fatto che il mese di maggio abbia ha portato interessanti segnali di risveglio sul fronte industriale, segnali che arrivano dopo un mese di aprile che invece aveva fatto registrare uno stop. L'Istat ha calcolato che l'aumento della produzione industriale su base mensile è stato dello 0,9%, su base annua il balzo è arrivato addirittura al 3%, ben oltre le previsioni degli analisti, che avevano stimato una crescita dell'1,2%. È interessante segnalare che per trovare un aumento più elevato si deve tornare all'agosto del 2011, quando la crescita su base annua fu addirittura del 7,1%. Quindi andamento positivo della produzione industriale si segnala in tutti i raggruppamenti, compreso quello dei beni di consumo, ma a far ben sperare c'è la crescita che interessa il comparto dei beni strumentali, più 8,5% rispetto all'anno prima, ed è un dato che indica forse un maggior ottimismo delle imprese pronte a investire nell'aspettativa di una ripresa un po' più solida di quanto non si sia visto finora. Insomma, come dice Padoan, un passo nella direzione giusta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.